ti chiami? Io mi chiamo Antonio, se vuoi sapere anche il cognome Costanza, non Costanzo come Maurizio, famoso Maurizio. Non so se avete seguito ultimamente. Sì, anche Maurizio. Quindi a me finisce con la A. Maurizio. Prego. Chi ha preso la tua passione per l'orto? Allora, la mia passione per l'orto è nata perché il mio papà aveva degli orti, delle campagne, no, che lui coltivava, e io fino al quando andavo, io ho la mia, il mio studio di studio è la terza media, fatta nel 1953. Poi andavo, aiutavo mio padre, poi ho imparato qualche mestiere, addirittura anche ho fatto un corso di, allora si chiamava radiotecnico, cioè si ripara, per riparare le radio, perché la televisione ancora non esisteva, no? E allora per riparare le radio, così diciamo, avevo fatto un corso, poi ho abbandonato e basta. Poi quindi avevo preso la passione da mio padre. Poi arrivato a una certa età sono andato, se volete sapere dove sono andato all'età di circa 18-19 anni, ve lo dico, mi sono arruolato in polizia, dove ho fatto circa 3 anni, no? Ho fatto il servizio, poi sono andato a lavorare a Taranto, all'Ilva di Taranto, attualmente non so se ve ne sentite. In Puglia? In Puglia, benissimo. Ho lavorato lì per circa 26 anni e poi in pensione. Andando in pensione mi sono dedicato agli orti. A Taranto avevo un grandissimo orto, non di mia proprietà, però lo gestivo io. E quindi la differenza che vedo, che ho notato dal sud al nord, è enorme. Perché dove avevo l'orto lì avevo alberi di olive, alberi di fichi, fichi d'India, e coltivavo un po' di tutto. Invece qua bisogna stare, mi sono dovuto adeguare quando sono venuto qui, che il sindaco Walter ci ha assegnato questi orti, e quindi la cultura qui è molto diversa da quella del sud, perché le temperature sono diverse. Quindi la mia passione, rispondo a chi mi ha chiesto, la mia passione quindi è dovuta al, diciamo, al... Da quando, da mio padre, va, ho preso, mi piaceva per quel che faceva. Un'altra domanda? Da quanto tempo coltivi? Allora, qui coltivo esattamente questo, da quando il comune di Bessenello ha creato questi orti, e lo coltivo esattamente da... Allora, questo è l'ottavo anno. Cosa coltivi? Cosa coltivi? Allora, le coltivazioni qua che io mi sono dovuto adeguare. Comunque, le coltivazioni che solitamente faccio sono i pomodori, zucchine, fagiolini, cetrioli, cipolle. Porri, diciamo c'è un po' di insalata. Carote? Carote no, perché per coltivare la carota c'è un terreno molto morbido, e qui è duro, qui abbiamo un terreno molto duro. Cos'è la tua frutta o la verdura che ti piace più coltivare? Ma diciamo la coltivo un po' tutta, quello che mi piace, no, cioè a me piace tutto, però ripeto, mi devo adeguare all'ambiente, perché per esempio qui certi tipi di verdure d'inverno si possono coltivare perché fa molto freddo, mentre giù al sud l'inverno è pieno di verdure perché la temperatura è molto più alta. Faccio un esempio, per esempio lì dove stavo a Taranto coltivavo le fave. Non so se voi le conoscete le fave. Sì, cosa sono le fave? Dei legumi? Sono dei legumi. Allora, le fave qui ho provato, ma prima di marzo non si possono seminare. Ho provato, ma non mi danno soddisfazione, cioè la pianta non cresce bene. Mentre esattamente l'inizio di maggio si seminano il mese di novembre e si raccolgono fine marzo, aprile. Quindi io ho dovuto praticamente adeguarmi. Qua per esempio i pomodori solitamente si crescono in altezza, no? Invece giù non esiste coltivare pomodori in altezza. E crescono tutti, si chiama la pianta nano, cresce diciamo molto bassa. Mentre qui vedo che mi sono dovuto adeguare, portare. Anche qui ho provato a crescere il pomodoro nano, però non mi dà soddisfazione, e quindi ho evitato. Un attimo. Come io per esempio adesso continuo queste temperature, dovrò cominciare a piantarmi qualche zucchina, qualche cetriolo, diciamo quelle piante che ci soffrono di più al freddo. Okay. Sentiamo qua una domanda, prego. Ti è mai capitato che un animale o qualcosa ti abbia mangiato? Ogni giorno. Qua c'è. Sta proprio ieri, oggi stamattina ieri mattina sono venuto qua, scendono i caprioli. Mangiano tutto, mangiano. Scendono i caprioli, però non mangiano tutte le verdure. Solitamente mo vi dico cosa ho trovato che mi mangiano. La bietola, il radicchio, non sempre il radicchio. Per esempio non toccano i cavolfiori, non toccano le verze. Non toccano i borri? Non mi ricordo, comunque alcune piante. I borri. Quando c'hanno molta fame, come qualche anno fa, addirittura hanno mangiato il prezzemolo, dove quando non lo toccano mai solitamente. Quindi qui io qua sopra ci sono i caprioli. Quindi offro la merenda a tanti caprioli. È un giorno, vi racconto, stavo qui. L'anno scorso stavo inclinato a preparare, forse l'hai visto? Sì, ha visto un camoscio. Un camoscio. Stavo preparando un terreno dove dovevo seminare qualcosa, all'improvviso stavo così inclinato, mi sentivo come se stavo per passare un cavallo di qua. Mi giro ed era un camoscio che andava lì. Qua sopra qui questa passerella qui che andava verso il bosco qui. Altre domande? Che tipo di concime usi? No, vieni qua a dirlo, perché che tipo di concime usi? Allora, solitamente qua il concime io uso lo stallattico. Dici tu che cos'è lo stallattico? Allora si può chiamare anche humus. C'è con i granelli? Sì, esatto, è un diciamo un organico, è un concime organico, e quindi dove si può anche uno volendo, se c'è la possibilità, se lo crea da solo, perché se tu prendi tutte le piante, le foglie, li metti in un contenitore, diciamo che marcisce e quindi si forma quel concime là. Quest'anno quando è che inizi a piantare le verdure? Allora, le verdure, tipo, ho già iniziato a piantare l'insalata. E qui l'insalata si dice, è un tipo di insalata, si dice insalata del Trentino. Insalata trentina quella? L'insalata trentina, quella rossa. E anche là un altro tipo di insalata, che mi sono messo di spalle. Tranquillo. Un altro tipo di insalata, che ed è molto resistente, è la famosa Barba dei Frati si chiama, non so perché si chiama Barba dei Frati, però è un'insalata che resiste anche abbastanza bene alla temperatura un po' bassina. E quindi l'altra insalata che mantiene di più è anche che assomiglia a quella trentina, è la canasta. Allora, come vedete io ho già cominciato a piantare. Allora, se qualcuno mi dice, vedi, quello è un radicchio, quelle piante là sono radicchio, va bene? Allora qui, quello è il sedano, prezzemolo, sedano, qua iniziate a piantare i pomodori, vedi? Poi abbiamo questa è la famosa insalata trentina che vi ho detto prima, questa qua. Questa invece è cicoria, questa è cicoria, qui è pure insalata, qua è cipolle, vedete? Questi sono, allora, questi, la prima fila qua sono porri, fino a una metà, poi sono cipolle. Quelle che stanno nascendo, vedi, quei due canaletti così, quello ho messo, diciamo, i semi di cipolla, le cipolline piccole. Se vedete qua, guardate qua, questa è qua ho messo la cipolla, guarda, questa è cipolla, cipolla, cipolla, cipolla, le vedi? Le avete visto? Io poi metto per guadagnare spazio, più, diciamo, perché la cipolla qui, no? Arriva a giugno, più o meno si raccoglie e quindi faccio subito spazio. Poi c'è un altro orto che occorre pure coltivo io, che non è mio ma è di mio genere, è questo qua. Allora qua vede, questa è la salvia. Questa è questa pianta qua è salvia. Questa è la loro. Io piantai, misi una piantina qualche anno fa e adesso mi è andata alberello. Allora vedete, questa è insalata, pomodori, radicchio. E questo è l'altro orto che diciamo che è di mio genere, però lo coltivo io perché lui può venire, non può venire, a volte c'ha un altro lavoro. E quindi adesso mano in mano sto iniziato a piantare delle verdure. L'acqua? Dov'è? Abbiamo l'acqua. Ah, laggiù avete messo l'acqua? Sì. Sì, questa è acqua. Qui abbiamo, diciamo, ogni tanto c'è un rubinetto dove attingiamo acqua. Lo tira con le gomme qua? Sì, sì, io poi, oppure c'ho l'innaffiatoio a mano, gli butto un po' di acqua per volta. Ecco, vedete, guarda le cipolle, vedi quella riga là? Queste sono tutte cipolle. E questi sono rapanelli o è? No, queste sono cimi di rape. Queste piccoline? Sì. Ho messo un po' di semi che mi sono avanzati. E non so, se riuscirò a fare qualche piantina, diciamo, poi li metterò, diciamo, più sparse. Se c'è la siccità, come farei anche quest'anno? E niente, bella mia, se ci chiudono l'acqua, continua la siccità, adesso c'è l'acqua. Che arriva l'estate e continua a non piovere, non so. L'anno scorso l'hanno chiusa l'acqua? Mi sembra, l'anno scorso... No, non ce l'hanno chiusa. Però abbiamo cercato, cioè, a differenza dell'altro anno, di usarlo un po' di meno, diciamo. Sicuramente in questi anni c'è stata più sensibilità sull'utilizzo dell'acqua, perché ci siamo accorti che è molto, molto preziosa. Per esempio, io mi ricordo gli altri anni, qui c'è questo si chiama giù, il Rio Secco. In alcune occasioni che ha piovuto tanto, scorreva acqua. Io mi ricordo 2 anni fa... che ancora non ci aprivano l'acqua, io andavo giù a riempirmi il secchio per cominciare a mettere qualche piantina.